Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Vi è mai capitato di guardare un telegiornale dopo una tornata di elezioni amministrative? Di solito, ascoltando solo le dichiarazioni dei politici intervistati, non sarete mai in grado di capire bene chi ha vinto o chi ha perso. Ogni partito si vanta dei comuni conquistati e omette, si dimentica di nominare quelli persi. Guardando invece le cifre delle elezioni amministrative di maggio, i risultati sono emersi subito con una chiarezza disarmante. Possiamo chiamare per nome i vincitori e possiamo dare un volto agli sconfitti, senza sbagliarci. Hanno vinto le liste civiche e hanno perso i partiti tradizionali. Se alcuni partiti infatti sono riusciti a rimanere a galla conservando parte del loro bacino di voti, altri sono stati praticamente cancellati. Giovanni Saonara, insegnante e collaboratore del Centro Toniolo, ha raccolto i dati delle elezioni di maggio nel territorio della diocesi di Padova. Da questi dati emerge un dato schiacciante. Nei consigli comunali si siedono sempre più esponenti di liste civiche e sempre meno rappresentanti dei partiti cosiddetti tradizionali. Se a Cittadella e a Vigonza partiti e liste civiche si dividono i consigli esattamente a metà, nei comuni di Granze, Lozzo Atestino, Teolo, Vescovana e Torreglia nemmeno un consigliere è stato eletto come espressione dei partiti nazionali. Proprio a Torreglia, nel Padovano, una lista civica guidata da un giovane di poco più di 30 anni è riuscita a scavalcare la Lega Nord, il centrodestra, ma soprattutto il centrosinistra che si trovava alla guida del comune da molti mandati. L'unico dei 19 comuni della diocesi nel quale le liste civiche sono arretrate di fronte alla politica tradizionale è Segusino, nel Trevigiano, dove la Lega Nord ha confermato il suo primato. Ma la lista civica per eccellenza, protagonista dell'ultima tornata elettorale non solo nella diocesi di Padova, non solo nel Veneto, ma tutta Italia, è il Movimento di 5 Stelle guidato da Beppe Grillo, che ha avuto ottimi risultati in tutti i comuni in cui si è presentato, anche nel territorio della diocesi di Padova. Seconda forza con Selve, Saonara, Vigonza, terza forza Veggiano, Santa Maria di Sala, prima ma non è arrivata ai ballottaggi con la scusa delle coalizioni, prima dal punto di vista proporzionale, Atiene. Tutto questo è antipolitica o è una nuova forma di fare politica? I partiti sono in crisi? Ne parleremo fra pochissimo. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Coloro che hanno responsabilità politiche non devono dimenticare o sottovalutare la dimensione morale della rappresentanza, che consiste nell'impegno di condividere le sorti del popolo e nel cercare la soluzione dei problemi sociali. In questa prospettiva, autorità responsabile significa anche autorità esercitata mediante il ricorso alle virtù che favoriscono la pratica del potere con spirito di servizio, pazienza, modestia, moderazione, carità, sforzo di condivisione. Un'autorità esercitata da persone in grado di assumere autenticamente come finalità del proprio operare il bene comune e non il prestigio o l'acquisizione di vantaggi personali. È con noi in collegamento telefonico Giovanni Saonara, insegnante, collaboratore del Centro Toniolo, già presidente diocesano dell'Azione Cattolica e parlamentare negli anni 90. Grazie per essere con noi. Prego, una felice occasione. Autorità esercitata mediante il ricorso alle virtù, da persone in grado di assumere autenticamente come finalità del proprio operare il bene comune e non il prestigio o l'acquisizione di vantaggi personali. Sono parole forti, che ne pensa? Sì, sono parole forti, sono parole che non sono superate dai tempi, anzi possono tranquillamente essere riproposte, e proprio perché la dottrina sociale della Chiesa si pone come forte orientamento non legato alle singole occasioni, ma direi alle lunghe stagioni, quindi è una lunga stagione quella della nostra democrazia e quindi sono parole che hanno un grande peso anche oggi. Andiamo al dunque del tema di questa nostra puntata. Come definirebbe una lista civica? Cos'è una lista civica? Ma una lista civica è una soluzione, nel senso che considerata la situazione che si crea nelle diverse comunità, si sceglie questa soluzione anziché sceglierne altre. Quindi anche nello studio che io ho fatto non ho scritto una parola contro le liste civiche. Ho certamente evidenziato un fatto abbastanza singolare, cioè che il numero di liste civiche è estremamente significativo e questo significa che il numero di cittadini che guardano con fiducia, con simpatia alle liste civiche è fortemente significativo. Meno significativa è invece la presenza dei partiti. Quindi la soluzione lista civica sembra prevalere rispetto allo strumento partito, che è lo strumento previsto dalla nostra Costituzione. Noi abbiamo visionato i dati del 2012, ma c'è un aumento rispetto agli anni scorsi oppure? No, non è un aumento significativo, perché il dato delle liste civiche è costante, specialmente nelle consultazioni comunali e specialmente nelle consultazioni comunali nei comuni inferiori a 15.000 abitanti. Resta il fatto che nel 2012, a differenza di quello che è accaduto nel 2007 o di ancora di più nel 2002 o negli anni 90, è del tutto evidente che la sfiducia nei confronti dei partiti è altissima e quindi in qualche modo la presentazione costante di liste civiche, addirittura di liste civiche che sostituiscono le liste di partito anche nei comuni superiori a 15.000 abitanti, mi riferisco ad esempio a Thiene, è un indice di imbarazzo, a volte anche di crisi, insomma, di un soggetto che, ripeto, è previsto esplicitamente dall'articolo 49 della nostra Costituzione. E di questo nessuno può compiacersi, perché se i partiti sono in crisi è chiaro che è in difficoltà anche il sistema della rappresentanza democratica. Anche perché comunque le liste civiche degli scorsi anni molto spesso erano espressioni di coalizioni politiche con componenti politici al loro interno, quest'anno invece sono molto più le liste civiche, chiamiamole pure, insomma. Sì, certo, poi bisogna andare nel dettaglio, nel senso che in Veneto si è votato per 86 comuni e probabilmente sono anche 86 storie, cioè nel senso che si cercano giustamente gli analisti anche di fare dei confronti, con le precedenti amministrative, di fare dei confronti con le consultazioni regionali del 2010. Sono tutte operazioni di analisi molto serie e che vanno certamente ponderate, rilette e colte, però è del tutto evidente che sì, anche la presenza del Movimento 5 Stelle contribuisce a fare in modo che i dati siano estremamente variegati e differenziati. È un po' difficile, no, cogliere tutta una serie di questioni se poi le liste civiche sono proprio civiche, cioè sono proprio locali, e quindi a quel punto lì ognuno ha storia a senso. Esatto. Proprio di questo parleremo tra pochissimo, sì. Ci fermiamo qualche istante. Il bene di tutti. Parliamone, rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con Giovanni Saonara, insegnante e collaboratore del Centro Toniolo, che nelle scorse settimane ha espresso un documento nel quale ha analizzato come sono andate le scorse amministrative e le amministrative di maggio, che hanno comportato un grosso successo delle liste civiche. Grazie per essere con noi. Bene. Questo boom, e soprattutto il boom di Grillo, è dovuto anche al fatto che i partiti non si sono ispirati a quei principi che proprio questo punto del compendio della dottrina sociale della Chiesa spiega? Si sono dimenticati, insomma, di quella dimensione morale della rappresentanza, oppure sono altre le cause di questa debacle dei partiti tradizionali? Io credo che in parte ci siano state anche delle evidenti difficoltà, specialmente proprio negli ultimi mesi, con scandali che hanno toccato in particolare la Margherita da un lato e la Lega Nord dall'altro. E c'erano lunghi motivi di riflessione anche che hanno poi condotto, insomma, alla crisi e alla sostituzione del governo Berlusconi. E quindi tutto questo scenario nazionale non ha agevolato, non ha facilitato il compito dei partiti. E tuttavia la questione resta in piedi, e cioè, se un partito intende essere luogo di sintesi, luogo di ricerca e luogo di proposta, è del tutto evidente che il momento elettorale è anche uno spazio specifico di verifica di tutto questo. E allora affidarsi, come dire, o a travestimenti oppure a essere sostituiti integralmente dalle liste civiche risulta, sì, una scorciatoia, tanto più che il Movimento 5 Stelle invece evidentemente è riconoscibilissimo, nel senso che là dove si è affermato con il suo simbolo, nessuno ha fatto la lista civica 5 Stelle, e questo complica un po' il quadro, perché c'era chi era nato contro i partiti che adesso diventa un simbolo riconoscibilissimo e squisitamente politico, e chi invece è strutturalmente politico che adesso diventa irriconoscibile. È un po' un gioco delle, diciamoci, parti. La verità, nella storia della politica da 200 anni a questa parte, molti hanno utilizzato elementi di antipolitica e sì, poi sono diventati politici, e la loro antipolitica è divenuta politica. Il Movimento 5 Stelle come lo inquadra? E ci sono fattori di questo tipo, ci sono fattori di insoddisfazione locale, Parma ne è un esempio, ma ci possono anche possono essere fattori di spinta civica, per esempio a Mira, se non ho capito male, la spinta è stata di questo tipo, e quindi anche lì il movimento mi sembra un soggetto ancora molto magmatico, e poi si chiama movimento, non si chiama partito. Vedremo da qui al 2013 quale sarà la evoluzione e la trasformazione. Quello che è certo è che dentro un quadro di astensionismo molto forte, no, che ha premiato tra virgolette proprio questa determinazione di astenersi dalle urne, il Movimento 5 Stelle ha avuto voti veri, ecco, cioè nel senso che non sono voti virtuali, no? o assegnati, diciamo, a livello di simpatia informatica, ecco, sono voti veri, e quindi questo costituisce un fatto che chi fa analisi politica, ecco, credo che debba valutare con molta attenzione. Anche a livello nazionale siamo passati dai sondaggi che la davano al 3, 4, 5 a 17, 18, 19. Sì, infatti i sondaggi sono utili, ma poi i numeri sono ancora più utili, insomma, no? Lo scopo della mia ricerca è quello di riflettere sui numeri, non sui sondaggi, non sui sentito dire, non sulle impressioni. Io metto in fila dei dati, li confronto a fine anni 90, inizi anni 2000, a metà, insomma, no, del decennio, e poi nel 2012. Confrontare quattro competizioni elettorali a me sembra un esercizio di grande utilità per il futuro. Abbiamo aperto questa trasmissione dicendo una inesattezza, abbiamo detto che hanno vinto le liste civiche, in realtà se noi andiamo a vedere i numeri, il partito che ha vinto è il partito dell'astensione. Sì. Questo a parte che l'indice di astensione in Italia è stato il più basso sempre di Europa, per cui negli Stati Uniti se vanno a votare poco meno del 50% sono contentissimi, no, da noi invece, ecco, sì. C'è da preoccuparsi per questo indice di astensionismo? Sì, oppure... c'è da preoccuparsi, perché il paragone con gli Stati Uniti non regge, nel senso che lì si tratta di una società postmoderna di oltre 300 milioni di persone, dove ci sono tutta una serie di processi sociali, e soprattutto c'è un sistema istituzionale che premia fortemente le responsabilità locali. Ma anche, insomma, in Europa, no? Comunque eravamo uno dei tassi di astensionismo più basso, e stiamo arrivando a livelli europei. Ecco, c'è da chiedersi se sia questa l'Europa che vogliamo. Io in un'altra occasione ho usato questa immagine, cioè stiamo andando verso la democrazia, anche la democrazia dei due terzi, no? Cioè la domanda è aperta, si era parlato di società dei due terzi, cioè dei due terzi benestanti e un terzo non benestante o in difficoltà economica o povero, no? Per chiamare le cose con il loro nome. E la domanda che ci si può porre è se possiamo essere sereni e tranquilli quando la percentuale di partecipazione attiva al voto è del 60-65%. Io non sono convinto che questo sia un segno di modernità, di americanizzazione o di europeizzazione, chiedo scusa del bisticcio, cioè non penso che sia un passo avanti, io penso che sia un passo indietro, che nel nostro paese potrebbe anche generare, come dire, il passaggio involontario dalla democrazia alla oligarchia o all'aristocrazia, insomma, no? Cioè un passaggio indietro, non un passaggio avanti. E facciamo un passaggio avanti noi invece. E quest'anno prossimo che si apre davanti a noi è sicuramente ci sono molte cose che non sappiamo come andranno, il governo tecnico, l'Europa, lo spread. Però vedendo questi dati politici e vedendo un quadro politico che si andrà a comporre l'anno prossimo, non sappiamo neanche ancora con che legge elettorale e con che bilanci istituzionali, come si svolgeranno, come le vede? Come vede le elezioni l'anno prossimo? Ma guardi, sulla base della mia esperienza io penso che nascerà nei prossimi mesi un nuovo soggetto politico, un nuovo contenitore politico che proverà a convogliare nel suo simbolo una massa ingentissima di persone che si sono astenute o che hanno dimostrato grande insofferenza, insomma, nei confronti della politica in questa occasione amministrativa. E quindi ci sarà sicuramente una cosa nuova, non lo so se poi le cose nuove saranno altre, anche la Lega ha annunciato delle possibili innovazioni nel suo stile, nel suo modo di fare politica. E poi si chiede che legge elettorale o nuova o vecchia, comunque ci sia anche un'aggregazione di altro tipo nel versante del centro-sinistra. Io mi auguro che i partiti riescano a cogliere il messaggio che era stato dato nel 2008, che era quello di una semplificazione del quadro. Ma naturalmente la semplificazione del quadro non deve danneggiare la partecipazione, perché la nostra Costituzione non prevede, come dire, la solitudine del cittadino, ma un cittadino in relazione con gli altri. La Costituzione ripete costantemente dall'articolo 13 in poi che si parla di relazioni di tipo civico, di relazioni di tipo economico, di relazioni di tipo sociale, di relazioni di tipo politico. Essere in rotta rispetto a questo principio, a questa, come dire, questo cardine della relazione porta fuori strada e quindi ci porterebbe, ripeto, a una situazione di arretramento della qualità della democrazia. Grazie per le sue parole, auspichiamo che la politica comunque vada nel 2013, diventi sempre di più uno strumento per il bene comune e che questi assetti anche dei partiti pensino ognuno con le proprie sensibilità proprio a questo, al bene comune della nostra nazione. Grazie per il tempo che ci ha concesso e grazie per i suoi dati e i suoi studi, Saonara. Bene, a voi buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Ringraziamo l'associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo alla realizzazione di questa trasmissione. Vi ringraziamo per gli attestati di stima, di sostegno e per tutte le volte che avete scaricato il nostro podcast sul sito di Blu Radio Veneto. Ci risentiamo martedì prossimo, sempre alle 18.25, sulle nostre frequenze di Blu Radio Veneto. Per contattarci mandateci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Andrea Canton vi ringrazia, l'appuntamento con noi a martedì. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova.